412. Sedani per contorno. Gli antichi, nei banchetti, si incoronavano con la pianta del sedano, credendo di neutralizzare con essa i fumi del vino. Il sedano è grato al gusto per quel suo aroma speciale, per questo e per non essere ventoso, merita un posto fra gli erbaggi salubri. Preferite quello di costola piena e servitevi solo delle costole bianche e del gambo, che sono le parti più tenere. Eccovi tre maniere diverse per cucinarlo. Per le prime due sarà bene che diate ai pezzi la lunghezza di 10 centimetri e per la terza di 5 soltanto. Il gambo, dopo averlo sbucciato, tagliatelo in croce e lasciatelo unito alla costola. Poi fate bollire questo ortaggio in acqua alquanto salata, non più di 5 minuti, e levatelo asciutto. Prima maniera. Mettetelo a soffriggere nel burro, poi tirate la cottura col sugo di carne e uniteci del parmigiano quando lo mandate in tavola. Seconda maniera. Ammesso che i sedani da crudi siano dai grammi 200 ai 250, ponete in una cazzaruola grammi 30 di burro e un battutino con grammi 30 di prosciutto grasso e magro, tritato fine insieme con un quarto di cipolla di media grandezza. Aggiungete due chiodi di garofano e fate bollire. Quando la cipolla avrà preso colore, versate brodo e tirate il soffritto a cottura. Allora passate ogni cosa e ponete il sugo in un tegame ove i sedani stiano distesi. Conditeli con una presa di pepe, perché il sale non occorre, e mandateli in tavola col loro sugo. Terza maniera. Infarinatelo, immergetelo nella pastella numero 156 e friggetelo nello strutto o nell'olio. Oppure, che è meglio, dopo averlo infarinato, immergetelo nell'uovo, panatelo e friggetelo. Quest'ultima cucinatura dei sedani si presta più delle altre per contorno agli umidi di carne con l'intinto dei quali li bagnerete. 413. Sedani per contorno al lesso. Servitevi delle costole bianche e tagliatele a pezzetti di 2 centimetri circa. Lessateli per 5 minuti nell'acqua salata e metteteli a soffriggere nel burro. Poi legateli con la balsamella del numero 137, tenuta piuttosto soda, e date loro sapore col parmigiano.